706 soufflé di riso. Riso grammi 100, zucchero grammi 80, latte decilitri 6, uova numero 3, un pezzetto di burro, rum una cucchiaiata, odore di vaniglia. Fate bollire il riso nel latte, ma se non lo cuocete moltissimo non farete niente di buono. A mezza cottura versate il burro e lo zucchero, compreso quello vanigliato per l'odore, e dopo cotto, e diaccio che sia, mescolategli dentro i rossi, il rum e le chiare montate. Per il resto, regolatevi come per il soufflé di farina di patate. È una dose che potrà bastare per quattro persone.